Falco e il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Meno male che la regia di Luigi Speciale può mostrarvi, anzi farvi sentire la mia voce, ma non il mio volto commosso, perché qui andiamo veramente tra i miti della mia adolescenza. È una delle donne che ho amato di più, pur avendola solo vista in concerto. Sto parlando di una donna bellissima, intelligente, sensibile, piena di talento, con una vita attraversata sempre da un sottile e costante senso di disagio, sempre fuori luogo, fuori tempo, senza pace. È un disagio che l'ha segnata fino alla morte. Sto parlando di Nico, la musa di Andy Warhol, la cantante dei Velvet Underground e colei che poi fece un sacco di cose nella sua vita. I don't have any limits. Io non ho limiti, non sono il tipo di persona che deve essere al di là per sentirsi realmente oltre. Posso sentirmi così anche in una piccola cella. In realtà mi piace sentirmi rinchiusa. I like to be locked in, in fact. Quella che sembra la protagonista di un'antica saga tedesca, cupa e gotica, si chiama in realtà Krista Paffgen. Nasce nell'ottobre 38, quando c'è già stata la Anschluss, l'annessione dell'Austria. Quindi tutta la Germania si sta avviando alla rovina, diciamo alla guerra mondiale. Il suo padre viene arruolato nella Wehrmacht e dopo qualche tempo la famiglia non ne sa più nulla. Così la zia di Krista, Elma Wolf, va a aiutare la sorella rimasta sola per allevare la bambina piccola. Non ha mai conosciuto suo padre. Cosa puoi ricordare quando hai un anno e mezzo? Mia sorella seppe dalla Wehrmacht che era stato ucciso in azione, ma non era vero. Era stato ferito, ma era vivo. Eppure ci fecero credere che fosse morto. Sotto Hitler funzionava così. Se non servivi all'esercito, eri inutile. Era il 1940. Krista aveva un anno e mezzo. C'era la guerra. Suo padre era già sotto le armi, quindi sua madre la portò da Colonia a Berlino. Ma i nostri genitori ci scrissero: «Il cielo è rosso sopra Berlino, c'è fuoco ovunque. Porta la bambina a Lovenau, venite qui a rifugiarvi». Così mia sorella portò sua figlia dai nostri genitori a Lovenau e sei mesi dopo li raggiunsi con anche mio figlio. C'è la guerra, la Germania è devastata, Berlino è un cumulo di macerie e i tedeschi cercano di arrangiarsi in ogni modo per riprendersi. E lo stesso accade anche a Krista, che aiuta la mamma facendo dei lavoretti come sarta. È bravina, a 13 anni lascia la scuola, lavora come commessa. È un adolescente come le altre, però ha qualcosa di diverso, perché è bellissima, occhi grandi di un azzurro chiarissimo, zigomi alti, la bocca piena pelle di porcellana, cioè è veramente la tipica ragazza che viene ammirata da tutti. Anche la zia Elma pensa che tanta bellezza possa portarle fortuna. Andava a passeggiare sulla Kurfürstendamm, a vedere le vetrine. Non aveva amici, andava da sola. Fu così che l'ha scoprito Bias, il fotografo. Iniziò così. Vogue Parigi la vide e le diede subito lavoro. Aveva solo 16 anni. Sapeva come muoversi e recitare. Ed era tutto ciò che voleva fare. Aveva mani come latte e vetro. Non le ha mai usate per lavorare. Bellissime mani. Eh sì, il fotografo Herbert Tobias è solo il primo che rimane folgorato da questa donna bellissima, fuori dal comune, alta 1,80 m. C'è veramente la stoffa per diventare una modella, così viene lanciata nel mondo della moda. E si parte già con delle copertine sui giornali tedeschi. L'eco della sua bellezza arriva fino a Parigi, dove Vogue Francia la chiama per fare delle fotografie. Siamo nel 1955. La vita di Christa a Parigi cambia completamente, a partire dal nome, che è diventato Nico. Tutto inizia quando Tobias incontra un regista greco, Nico Papatakis. E proprio il regista ricorda quando, anni dopo, incontrando Nico a una cena, viene a conoscere dello strano battesimo. La persona che era a mia gauche si torna verso me e mi dice: "Your name is Nico?" Eravamo a cena quando questa ragazza seduta accanto a me mi chiede: "Tu sei Nico?" E io risposi di sì. Mi chiese se vivevo a Parigi e le dissi di sì. Allora mi chiese se avevo conosciuto un fotografo di nome Tobias e io le dissi di no. Allora mi raccontò: "Mi chiamo Nico per te, perché quando Tobias mi fece la prima foto di moda, mi disse che il mio vero nome, Christa, non era un buon nome per una modella. E quindi decise di ribattezzarmi con il nome di un uomo che aveva amato a Parigi, anche se non l'aveva mai conosciuto. E quell'uomo ero io, Nico Papatakis." E così seppi come nacque la storia del nome. E il nome porta fortuna a Christa Pafgen, che ormai è diventata definitivamente Nico. La sua carriera decolla, posa per le copertine delle migliori riviste parigine e ha delle particine in qualche film, ma uno di questi film è La dolce vita di Federico Fellini. Nico! Marcellino, bruttino! Come stai? Cattivo, frocci, bene. Dove vai? A Bassano di Succi, in un castello del mio fidanzato. Perché non mi ci porti? Oh sì. Senti, ti ha cercato paparazzo, voleva farti un servizio su Jardin de Mode. Sì, ma io non faccio più fotografie di moda da un anno, basta. Piccolina! Ecco la macchina! Parlando di Nico, la protagonista di una stagione musicale eccezionale che arriverà alla Factory di Andy Warhol, fece un disco mitico con i Velvet Underground di Lou Reed, e nel frattempo è alle prese con la moda, il cinema, la dolce vita, e con il regista Nico Papatakis, a cui lei deve il nome, diventa sua amica. E al loro arrivo a New York, Papatakis le dà un consiglio in più. Comme elle avait une voix très grave, je lui ai demandé un jour, est-ce que tu as jamais... Notai che aveva una voce molto profonda, e così le chiesi: "Hai mai cantato?" E lei rispose di no. Ma ogni tanto in casa cantava. Aveva un bel timbro di voce. Quindi la portai da un maestro di canto di New York, dove vivevamo a quel tempo, che le diede lezioni di canto. E la cosa funzionò bene. La voix, eccetera, e ça marchait très très bien. È il momento dei grandi incontri, le lezioni da Strasberg e poi Serge Gainsbourg che le propone di cantare una canzone. Insomma, comincia a essere veramente introdotta al grande giro, e tra le persone che si innamorano di lei ce n'è una che ha un ascendente particolare su di lei, al punto che Nico scopre di aspettare un figlio da lui. Elle m'appelle un giorno di New York e mi dice: "Voilà, j'ai une aventure avec quelqu'un. Un giorno mi chiamò da New York e mi disse: ho una storia, aspetto un bambino e lo voglio tenere. Il padre è Alain Delon, a lui va bene. Allora io le chiesi: sei sicura? E lei disse: sì, sono sicura, ci sposeremo. Allora le dissi: beh, buona fortuna. Ma diciamo che Dio ha dato delle qualità ad alcuni togliendone altre. Per esempio Alain Delon è sicuramente bellissimo, però diciamo che dal punto di vista etico, affettivo e della correttezza non è non spicca allo stesso modo. Non ha certo tempo per il matrimonio, il suo incontro con Nico è breve e mentre lei è assolutamente innamorata, convinta di aver incontrato il principe azzurro, Delon invece la ignora totalmente, al punto che questo bambino nasce e si chiama Christian Aaron, detto sempre Ari. Nasce nel 1962. Nico posa con suo figlio mentre Alain Delon fugge, si distacca e si disinteressa totalmente della vicenda. Così la madre di Alain Delon, Edith Boulogne, viene a sapere di avere un nipote proprio dalla copertina di un giornale in cui Nico è con il piccolo Ari. C'era questo articolo di un giornale, forse il France Dimanche, e quando l'ho visto mi sono detta: è il bambino di mio figlio. Andammo a trovarli, lei e il bambino. Il bambino aveva circa 2 anni. Corse in braccio a mio marito. Questa cosa ci commosse molto. In lui vidi mio figlio ed ero davvero convinta che mio figlio l'avrebbe accettato. Lo credevo davvero. E invece, quando lui seppe, dopo circa 2 anni che avevamo preso il bambino con noi, mi fece dire dal suo agente che dovevo scegliere fra il bambino o suo figlio. E mio marito mi disse: tuo figlio può provvedere a se stesso. Ari invece non può crescere da solo. E quindi l'abbiamo tenuto. E c'è come ça qu'on l'a gardé. Eh sì, Alain Delon è umanamente il contrario di ciò che traspare dal suo bellissimo volto. Intanto i primi anni della vita di Ari sono molto particolari. C'è per esempio un film di Andy Warhol che riprende un concerto dei Velvet Underground che suonano per un'ora lo stesso accordo in un frastuono dissonante. Bene, c'è Nico con un tamburello ai piedi di Nico, c'è questo bambino bellissimo che gioca un po' inebetito. Lui è un nomade sballottato tra Parigi, New York. Insomma, le esigenze di un bambino piccolo diventano incompatibili con la vita nomade della madre. Così Nico lo affida a Edith, ai nonni materni. Lui cambierà anche il suo nome da Ari Pafgen a Ari Boulogne, cioè il cognome del secondo marito di Edith. Insomma, finalmente questo bambino trova qualcosa che assomiglia a una famiglia. Era così piccino. Prima che lo prendessimo con noi, lei se lo trascinava ovunque. Non mangiava altro che patatine fritte nelle stazioni ferroviarie, negli hotel, negli aeroporti. Vivevano come bohemien. Una volta venne a trovarlo, dopo 3 anni. Gli portò una cosa dall'America. Indovini cosa? Un'arancia. Con mio marito ci guardammo, eravamo senza parole. Prendemmo l'arancia e pensammo che fosse davvero una donna ben strana. Nel 64 Nico torna a New York, si porta dietro il suo primo disco e finalmente, grazie all'amicizia con Brian Jones, riesce in qualche modo a arrivare fino alla Factory di Andy Warhol, e questo disco viene ascoltato da tutti. La prima volta che sentii parlare di Nico fu un pomeriggio alla Factory. Stavo lavorando con Andy ad alcune cose, quando un amico arrivò dall'ascensore e disse: «Ciao a tutti, voglio farvi sentire un disco di una mia amica, viene dall'Europa, si chiama Nico». Mise su questo 45 giri sul giradischi ed iniziamo ad ascoltarlo. And he put this low 45 record on our stereo system and played it. Tutti rimanemmo colpiti. Nico era come una scultura, una specie di dea. Sembrava venire dal Valhalla. Questo era Bill Name, l'assistente di Andy Warhol, che racconta la prima impressione che la voce di Nico fece su tutta la Factory. E qui le storie si fondono con una che abbiamo già raccontato, quella di Andy Warhol, e in questo momento Andy Warhol capisce che vuole occuparsi di musica e produrre una band all'interno della sua Factory. Ricordate, il luogo dove si incontrano personaggi strani, artisti, intellettuali, tossici, drag queen, ragazzi annoiati, insomma. E Nico spicca notevolmente, secondo Bill Name, non solo perché è bellissima, ma perché è veramente diversa da tutti gli altri. A quel tempo tutte le ragazze, anche le superstar, andavano in giro con i vestitini o le minigonne. Nico invece indossava i pantaloni, bianchi o neri. Era diversa da tutte le altre ragazze. Stiamo raccontando la storia di quella che secondo me è la donna più affascinante, bella e misteriosa di tutto il XX secolo. Mi sbilancio, lo so, ma ribadisco. Stiamo parlando di Nico, la cantante di origine tedesca, Krista Paffgen, che a un certo punto approda, dopo una giovinezza turbolenta di copertine, di giornali, ma anche di amori travagliati, approda alla Factory di Andy Warhol. Canta, grazie a Andy Warhol, all'interno di un album che ha fatto leggenda, il primo album dei Velvet Underground. Questo anche grazie a Paul Morrison, che è il co-regista di tutte le opere di Andy Warhol, perché a Nico piace soprattutto cantare. Nico era una cantante ed esattamente nello stesso momento in cui la conoscemmo, io avevo incontrato questo nuovo gruppo di cui qualcuno mi aveva parlato, che si chiamava The Velvet Underground. Erano un gruppo perfetto anche per il nome, con la parola underground dentro. I Velvet Underground, Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison e Mo Tucker, all'inizio c'era un altro che si chiamava Angus McLeese. Questi sono quattro musicisti che hanno cambiato la storia della musica con un album che non vendette moltissimo, ma che convinse centinaia di persone a mettere in piedi una band, il primo album dei Velvet Underground, quello con la banana, prodotto da Andy Warhol. Andy Warhol ha un grande fiuto per tutto quello che riguarda lo show business, però ha anche un grande rispetto per la creatività altrui, e qui di creatività ce n'è da vendere. L'importante per lui è che il risultato sia alternativo, underground, come il nome del gruppo promette, come Lou Reed dice più volte nelle interviste, anche se non va sottovalutato il ruolo di John Cale, che suonava la viola, arrivava dal Galles, era un musicista più classico. L'insieme di tutte queste personalità, e a questa aggiungiamo questa bellissima tedesca che canta e dà vita a qualcosa che non si ripeterà mai più, anche se all'inizio l'idea di mettere Nico con i Velvet non piaceva tanto ai membri originali della band. L'idea di metterla nella band ci sembrava una cosa molto offensiva, soprattutto a me e a Lou, che avevamo attraversato tutte le fasi dei Velvet. E il fatto di avere già una ragazza, Mo Tucker, alla batteria, ci sembrava il massimo che la band potesse sopportare. In realtà fu una buona mossa pubblicitaria da parte di Andy, mentre nessuno di noi riusciva a capire che valore potesse avere in mezzo a noi una bella ragazza bionda che suonava solo il tamburello. E così Nico canta in questo disco. È un disco che influenzerà il rock, il punk, il progressive, uno di quegli album senza i quali non ce ne sarebbero state decine di altri album del genere. E tra l'altro dentro ci sono anche delle canzoni meravigliose, alcune cantate proprio da Nico, come Sunday Morning, come Femme Fatale, poi c'è Heroin cantata da Lou Reed, Venus in First con la voce di Nico, insomma c'è veramente di tutto. E Sunday Morning è una di quelle canzoni che non possiamo dimenticare mai. Sunday morning, it's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. A volte le cose meravigliose durano lo spazio di un lampo. Così dopo un album e una serie di show dal titolo di Exploding Plastic Inevitable Show, che mescolano nel più puro stile warholiano musica, danza, spezzoni di film, l'esperienza di Nico con i Velvet si chiude. I Velvet Underground faranno altri album, poi progressivamente andranno anche loro verso lo scioglimento e le carriere soliste meravigliose di Lou Reed da una parte e John Cale dall'altro. Intanto Nico ha preso la musica seriamente, ma considera la sua bellezza, e posso capire il problema, cioè considera un ostacolo la sua bellezza. A un certo punto iniziò ad odiare la sua bellezza. Detestava il fatto che la gente pensasse che era una bella ragazza. La vedeva come una specie di disgrazia. Immagino fosse una specie di stupida perversione tedesca. Ma è vero che a quel tempo fare la modella non era una forma d'arte come adesso. Artista era considerata una come Janis Joplin, che gridava sul palco fino a consumarsi i polmoni, per poi morire di droga. A questo punto Nico se ne va per la sua strada e comincia a fare album uno più bello dell'altro, anche perché accorrono a aiutarla persone generalmente innamorate di lei, come Jackson Browne, che era folle di Nico, le scrive delle bellissime canzoni, tra cui The Fairest of the Seasons, e poi c'è Lou Reed, e poi c'è John Cale, poi c'è l'incontro con Jim Morrison, per il quale forse Nico si prende una cotta anche artistica, come se avesse incontrato l'anima gemella. Lui le consiglia di scrivere delle canzoni e da quel momento la sua avventura artistica prende una piega ancora più personale, con dei testi strani, difficili. John Cale dei Velvet non l'abbandona mai, perché continua a produrla a lungo. In qualche modo i testi che lei scrive sono lo specchio di un profondo cambiamento di cui Cale è testimone. In quel momento, se si va a leggere quello che creava, nessuno scriveva il genere di cose che metteva giù lei, neanche remotamente. Cambiò la sua immagine totalmente. Se prima era bionda e vestiva sempre di bianco, adesso invece si fece i capelli scuri e vestiva sempre di nero e viveva come in un sogno. Tutto quello che faceva era come una dichiarazione per dire che ormai lei era una persona diversa. La carriera di Nico è costellata di album meravigliosi che non arrivano mai, ovviamente, al grande successo commerciale, ma che sono frutto di adorazione da parte di fan in tutto il mondo che la considerano veramente la musa di un genere musicale in realtà costituito solo da lei. Nel frattempo lei torna in Francia, ha una relazione con Philippe Garrel, un regista che ha 10 anni in meno di lei, gira con lui 7 film molto strani, con dei dialoghi buttati giù qualche ora prima di girare, lo sfondo di paesaggi lunari, insomma qualcosa di veramente particolare, come sempre. Beh, se non ci fosse stato un rapporto artistico, non ci sarebbe stata neanche la relazione personale, perché tutto deriva dalla poetica della galassia. The Galaxy. Però insieme a Garrel per Nico inizia un'altra relazione molto più pericolosa, quella con l'eroina. Lei inizia a drogarsi con determinazione molto calcolata, non ha più un soldo, vive in un appartamento dipinto tutto di nero, senza riscaldamento né luce elettrica, tra sporcizia, mozziconi di sigaretta, e con un altro uomo che arriva, un giovane musicista tedesco che si chiama Lutz Ulbricht, e insomma diventa quasi un ménage à trois. Garrel e Nico sembravano quasi più fratello e sorelle. Io vivevo con loro nell'appartamento. Era una situazione imbarazzante. Ero a Parigi e a un certo punto lei mi buttò fuori dalla casa di Philippe gridandomi: «Sei un porco tedesco!» Adesso ci rido, ma a quel tempo è stato brutto. E Lutz condivide anche l'eroina con Nico perché cerca di essere al suo livello e si droga pur di capirla. Dopo un po' si rende conto che l'eroina lo fa solo essere peggiore e sta cambiando irrimediabilmente anche Nico, fisicamente ma soprattutto caratterialmente. Diede l'eroina anche ad Ari. Certo, non ci sono parole. Voglio dire, cosa puoi dire? Una madre che dà l'eroina a suo figlio. Non si può comprendere. Ari intanto è un adolescente, è stato adottato dalla nonna Edith, e questo è un colpo tremendo per Nico, che contempla anche il suicidio per paura di perderlo. È un rapporto strano, malato, perché da un lato lo ama enormemente e d'altro canto lo respinge, lo porta in giro, lo fa vivere in case dipinte di nero. Insomma, è veramente un rapporto di quelli che ti segnano per sempre. Io sono l'unica persona che la... Non credo che nessuno la conoscesse come la conoscevo io. Iniziò a drogarsi ancora di più per via dell'adozione. Era molto triste. Ladra di bambini, ecco come chiamava mia nonna. È come se le avessero accoltellato l'anima. C'era un legame tra noi due che non si è mai rotto, anche se siamo stati separati da questi dannati burocrati, dalla legge. Mia madre era un'artista, è un'artista. I Boulogne sono solo dei poveri esseri umani. Io non sono Boulogne, io sono Pafgen. Lei c'è sempre stata per me. Mi dava sempre uova e bacon da mangiare tutti i giorni. Quando inizi a farti di eroina, ma non ti fai ancora troppo, è una favola. Era una favola. Adesso non lo direi più, so che è un killer. Sono stato 3 settimane in coma, ero morto clinicamente, ero tenuto in vita dalle macchine. E mia madre, che venne a trovarmi, voleva registrare il suono delle macchine che pompavano per metterlo in un disco. Poi decise di smettere e di iniziare col metadone. Era il 1986. Non si fece mai più di eroina. Forse vedere il figlio in coma e in qualche modo sentirsi responsabile, ricordiamo che è lei che ha fatto provare l'eroina per prima a suo figlio, forse la cambia, decide di farla finita con la droga. Nel 1988 madre e figlio vanno insieme in vacanza a Ibiza e lei ha voglia di rimettersi in forma, di mangiare sano, di andare in bicicletta, e anche la mattina del 18 luglio si avvia per la sua usuale passeggiata in bici. Però quel giorno le cose vanno diversamente, forse a causa di un infarto cade dalla bicicletta. bicicletta. Sbatte violentemente la testa e viene trovata solo qualche ora dopo da un tassista di passaggio sotto il sole cocente. E all'ospedale pensano che si tratti appunto di un colpo di calore e invece scoprono troppo tardi che ha una emorragia cerebrale. Qualche ora dopo il ricovero, Nico muore, avrebbe compiuto 50 anni a ottobre. Mi manca il poterla baciare, abbracciarla, tenerle la mano. Si volterebbe e mi direbbe: ciao Ariline, caro, andiamo al bar a farci una birra? Aveva questa voce profonda, proprio così, e mi chiamava Ariline o Ariken. Come molti altri, Nico ha conosciuto la droga, la solitudine, la difficoltà, il male di vivere, ma forse come pochi è riuscito a mantenere intatta una forma di purezza, e in lei c'era un cuore di tenebra, ma anche la capacità di percepire la vita in un altro modo, molto più leggero, con il fatalismo di un nomade, ma con la serietà di un vero artista. Forse per questo era piaciuta tanto a Andy Warhol. Tutte queste sue qualità le hanno dato la possibilità di lasciarci una serie di album molto interessanti. Certo, non roba per tutti, non roba da passare in radio alle 4 del pomeriggio, ma da passare qui sì, perché noi ci stiamo occupando di grandi persone, di grandi storie, di grandi personalità. Ci sono storie di persone che hanno saputo darlo questo colpo d'ala, volare in alto, lasciare un segno, e Krista Paafgen, in arte Nico, ha saputo lasciare un solco nella storia della musica dell'ultima parte del secolo scorso, e vi consiglio di andarvi a sentire un po' di canzoni di Nico, perché troverete qualcosa che non sentite da altre parti, solo qui. E se volete mandarci altri commenti o segnalarci altre storie su cui puntare il mio microfono, fatelo, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina su Radio 24, venite a trovarmi, perché se volete mi trovate. Ciao, a domani. Now that it's time, now that the hour hand is landed at the end. That I'm almost not so very far behind. I want to know, do I stay or do I go and maybe fall another sigh? And do I really have a song that I can ride on? Il falco e il gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi.